programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Sono qui come ogni sabato puntuale, come si era attorcigliato tutto un filo intorno alla sedia, non riuscivo quasi, mi stavo capotando, ma sono qui sana e salva per voi come ogni sabato per ritrovarci insieme fino alle 15 più o meno a raccontarci un po' di queste notizie, anche di questa settimana, di tutte le settimane, ma questa settimana io ogni volta... Diciamo una specie di capogiro, un po' di compressione cerebrale, vuol dire è normale, evidentemente è un problema tuo. No, è proprio di riuscire a memorizzare tante cose che succedono, a capire, a entrare nei fatti, a capire le diverse interpretazioni, a farsi un'idea in generale, che quello per carità, insomma, abbiamo imparato a farlo tutti, però è veramente c'è cioè, un eccesso, direi, di notizie. Però, come sempre, ve ne ricordo qualcuna, almeno quelle principali, voi siete liberi, come sempre, di raccontarne una che vi ha colpito in modo così più incisivo, anche se magari non è nel mio elenco molto sintetico iniziale. Comunque, vi ricordate, il numero verde è sempre questo per intervenire con le vostre libere opinioni sui fatti della settimana, 800 24 00 24, numero verde quindi gratuito, 800 24 00 24. E prima di presentarvi appunto l'opinionista estemporaneo di oggi, prima di dirci perché continuano a non esserci più le mezze stagioni, ogni volta c'è un motivo per ricordarcelo, dicevo le notizie, naturalmente quella forse più roboante è stato il declassamento dell'Italia, del rating come si dice, cioè dell'affidabilità finanziaria sul debito sovrano insomma dell'Italia da parte dell'agenzia internazionale Standard & Poor's e tutte poi le cose che ne sono conseguite, l'opposizione che continua a chiedere dimissioni di Berlusconi e del governo, Berlusconi che dice è una campagna colpa dei giornali che ci hanno messo in cattiva luce. Ecco. Poi il salvataggio di Milanese, senza dubbio, notizia di ieri, una cosa che in molti si aspettavano, qualcuno avrebbe forse sperato, forse auspicato, forse pensato che non sarebbe andata così, è andata così. Poi molto importante anche a livello internazionale, sul piano, sullo scenario internazionale, la richiesta di Abu Mazen, presidente palestinese, ieri all'Assemblea dell'ONU, che ha chiesto il riconoscimento di uno Stato palestinese. Adesso si spera, anche se è roba ormai di 40 anni, 50 anni, che andranno avanti i negoziati tra israeliani e palestinesi, però sarebbe ora, insomma, che ci fosse uno Stato palestinese, naturalmente con una mediazione pacifica. E poi i poveri tre soldati italiani morti ieri in Afghanistan per un incidente, la lista outing che ha fatto venire fuori, almeno quelli che sarebbero presunti politici italiani gay e omofobi. E poi il duello Berlusconi-Tremonti, che insomma sicuramente non dà grande serenità e stabilità alla maggioranza e anche al paese. Bossi che è tornato a parlare di secessione, ma dicevamo, perché non ci sono più le mezze stagioni anche questa settimana? Non ci saranno più le mezze stagioni. Perché l'avete sentito, viene dalla scienza. Noi abbiamo ogni volta, non ci sono più le mezze stagioni, è il dire che non possiamo più avere le nostre certezze. Si diceva sempre vado più veloce della luce, ma non si può più neanche più dire, perché il primato non ce l'ha più la luce, come pensava invece Einstein, grande scienziato tedesco. No, adesso i neutrini hanno superato, piccolini che corrono, queste gambette, i neutrini più veloci della luce, è incredibile. Eppure loro, sì, è stato assodato dal CERN, questo Centro Europeo di Ricerca Nucleare di Ginevra, tra l'altro da uno scienziato italiano, che loro vanno più veloce della luce. Quindi sappiatelo, d'ora in poi anche questa certezza è caduta. Molto bene, invece andiamo in alto con un grande ospite, l'opinionista estemporaneo di oggi, signore e signori. Gian Antonio Stella. Buongiorno. Buongiorno Gian Antonio, proprio molto preciso, secco, lapidario Gian Antonio. Gian Antonio, tu sei demagogo? Non credo proprio, anzi mi fanno un po' schifo i demagoghi. Ah, senti, perché ogni volta che si parla dei costi della politica, dei costi della casta, sappiamo che c'è un'indignazione diffusa, soprattutto negli ultimi tempi, ma questa è demagogia, ma siete i soliti demagoghi, vi pare facile sparare sempre nella stessa direzione perché così avete consenso. Ho partecipato tra l'altro in una di queste sere a un dibattito TV politico dove dicevano ecco i soliti, ho provato a parlare di nuovo di tagli alla spesa politica, però mi hanno risposto che questa è demagogia e anche chi scrive come Gian Antonio Stella di queste cose fa il demagogo per guadagnare soldi poi con i suoi libri, ultimo, eccolo qui tra le mie mani. L'ultimo libro, tra l'altro, no, questa è una cosa proprio seccante e sciocca, assolutamente stupida, è soltanto un cretino può dire delle cose simili, non so chi sia. Nomino. L'ultimo libro costa 9 euro. L'ho visto, molto agile. È venuto a prezzo molto basso. È una cosa che se avessimo fatto qualsiasi altra cosa avremmo potuto prendere di più, ed è una cosa fatta per dovere civico, come per dovere civico avevamo fatto tutti gli altri. Io per dovere civico ho fatto libri sull'immigrazione italiana, per dovere civico ho Lorda, fatto libri quando gli albanesi eravamo noi, ne hai fatti quattro tanti, ne ho fatti sull'immigrazione, poi per dovere civico ho fatto libri sul razzismo, froci, neri, sì, eccetera. Dopodiché sentimi fare questi predicozzi, sono delle cose assolutamente insulse che soltanto un cretino, chiunque si sia, può pensare. Ma ti ho difeso strenuamente, Gian Antonio, perché ti siamo tutti grati. Anzi, ti dirò, dalla pagina Facebook si sono scatenati, dalla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, quando hanno saputo che c'eri tu. Per esempio Enrica scrive: grande Stella, ma nonostante le sue denunce non mi pare abbiano alcun effetto sulla politica in generale. E grande Roberta, che invita sempre ospiti così. Poi Maria Chiara scrive: bravo Stella, devo dire che ancora non ho avuto l'animo di vedere il film Silvio Forever, che pure ho comprato. E Guido dice: come afferma Gian Antonio Stella, finché possa migliorare l'economia del nostro paese occorre innanzitutto diminuire i costi della politica, eliminare gli sprechi, recuperare l'evasione e l'elusione fiscale. Dora dice: dottor Stella, lei ci fa sognare, ma come dar seguito a cotante informazioni? Quindi vedi, Fabio scrive: non mancherò senz'altro quando ci sarà Gian Antonio. E poi Luigi scrive: imperdibile l'appuntamento. Poi non sto a leggere tutte le altre, perché insomma ci fai sognare. Tu sapevi di far sognare Gian Antonio. Non esageriamo. Comunque anche questo tuo ultimo libro, Gian Antonio Stella, grande firma del Corriere della Sera, insieme a Sergio Rizzo, diciamo una premiata ditta ormai collaudata, ha scritto quest'altro libro di Rizzoli appena pubblicato, Licenziare i padri eterni. Chi saranno secondo voi questi padri eterni? L'Italia tradita dalla casta. E mi pare che abbiate fatto piuttosto velocemente, anche perché voi fate spessissimo delle inchieste sull'argomento, Gian Antonio, perché leggevo che l'ispirazione è venuta il 2 agosto, quindi poco tempo fa in realtà per questo libro. In realtà noi dovevamo mettere a posto un libro che è l'inchiesta sui 150 anni sull'Italia, 150 anni dopo l'unità. E stavamo lavorando anche su questi temi. Poi la situazione abbiamo visto precipitare giorno dopo giorno. A un certo punto, il 2 agosto, ci siamo decisi, perché il 2 agosto succedono alcune cose importanti che danno l'idea di come ci sia un pezzo della classe dirigente che non si rende assolutamente conto di dove vive. Volevano andare in pellegrinaggio, se ricordo bene, tra l'altro. Sì, no, volevano fissano 5 settimane di Damasco. Vacanze, praticamente 6 settimane di vacanze, anzi 6 settimane di vacanze, compreso una prolunga per andare a fare un pellegrinaggio interessante. Allo stesso giorno votano il bilancio della Camera con un taglio dello 0,71%, quindi un taglio pazzesco, assolutamente ridicolo, e lo stesso giorno crollano le vendite delle auto ai livelli del 1983, e questo ci ha fatto decidere, perché il 1983 non è un anno così lontano. Nel 1983, tanto per capirci, l'Italia aveva un PIL che era circa il 30% abbondante per cento superiore alla Cina, era molto più del doppio più grossa del Brasile, ed era il doppio dell'India. Sono passati soltanto meno di 30 anni, e meno di 30 anni l'Italia è circa poco più di un quarto della Cina, è stata sorpassata alla grande dal Brasile, avrebbe dovuto essere sorpassata dall'India nel 2014, ed è stata sorpassata 2 mesi fa. E nonostante questo, i costi della Camera e del Senato, e lo diciamo al netto dell'inflazione, cioè dopo aver già fatto il conto dell'inflazione, sono praticamente quadruplicati. Per capirci, il PIL pro capite è salito del 40%, i costi della Camera sono saliti del 367%, i costi del Senato sono saliti ai 370. E Gian Antonio, se, perché dire queste cose vuol dire fare i demagoghi, vabbè, allora voglio dire, è un demagogo anche Luigi Einaudi, che fece un articolo nel 1919 contro i Padri Eterni, che si titolava appunto Licenziare i Padri Eterni, e in cui era durissimo con chi non capiva cosa stava succedendo in Italia. Se lo avessero ascoltato, non saremmo risparmiati al fascismo. Gian Antonio, però devi anche pensare che il controfiletto in crosta è aumentato un po' col tempo, no? Quindi se lo mangiano magari lì la buvette in Parlamento, le penne anche costano qualcosa di più dell'83, tu ti ricordi, Gian Antonio? Allora, questo qui per esempio è un discorso meraviglioso, perché va proprio a cogliere un punto fondamentale, cioè quando c'è una discussione con quei politici, che non sono tutti, no, ma quei politici che fanno questo, che fanno questa difesa strenua dei privilegi, loro ti tirano fuori sempre queste cose qua, cioè tirano fuori due o tre cose. Allora faccio un elenco: i prezzi del Senato e della buvette della Camera sono cresciuti o stanno per essere aumentati, oppure gli stipendi dei parlamentari li abbiamo ridotti del 10 o del 20%, oppure al Quirinale ci sono meno corazzieri, e posso fare un elenco di queste cose qua, che sono tutte stupidate, perché in realtà noi cerchiamo inutilmente, devo dire purtroppo, cerchiamo inutilmente di dire da anni che i problemi sono molto più seri che non le pennette. Certo, le pennette non possono costare quella cifra, perché è un'offesa a tutti gli altri italiani, però so benissimo che il problema non è quello, non risani i conti facendo pagare di più le lamelle di spigola, è ovvio, è assolutamente ovvio, ma loro stessi fanno queste cose fanno questi discorsi per dare dei contentini e non affrontare il problema vero. Il problema vero è una classe politica ingorda che ha occupato tutta la società, tutti gli interstizi della società, che decide tutto, che vuole fare tutto e fa pesare tantissimo i costi dell'indotto, perché gli servono a far politica, quindi spende una marea enorme di soldi in consulenze, contratti a termine, nuove assunzioni, società miste di società miste, nuove municipalizzazioni, tutte queste cose qua che sono la vera ciccia dei costi della politica. Facciamo un esempio? Sì, facciamo un esempio. Se abolissimo domani mattina la Camera e il Senato, e io in difesa della democrazia, tanto per essere chiari, sono pronto a imbracciare il fucile. Tu lo dici? Certo, ovviamente. Io sono affezionatissimo alla democrazia, guai a chi mi la tocca, e se mi toccasse la democrazia prendiamo il fucile. Certo, però detto questo, se anche abolissimo e prenderei il fucile la Camera e il Senato, faremmo un risparmio di circa 1,5 miliardi di euro, che vuol dire un centesimo della manovra sui quattro anni. Vuol dire niente, non è quello il risparmio, il grande risparmio. Va fatto comunque, perché è una questione di decoro da parte della classe dirigente, però sono d'accordo che il grosso risparmio non è questo. Ci sono però delle altre cose che costano immensamente di più, e sono l'enormità di costi dell'indotto della politica, quello di cui parliamo. Sì. L'elenco che hai fatto. L'esempio facciamo, Gian Antonio, facciamolo dopo l'esempio, perdonami, perché c'è una fila incredibile di ascoltatori che sono in attesa. Cominciamo a sentire anche le vostre voci, poi sapete che c'è anche un collegamento con un altro pianeta, quindi le cose sono tante. Sentiamo Mario da Verona. Sì, buongiorno Roberta. Buongiorno Mario. Ecco, io mi prometto sempre di non ascoltarti perché rischio di rovinarmi il fine settimana per gli argomenti che si trattano. Poi però la tua simpatia francamente è troppo. Ecco. Dopo aver sentito i dati che ha esposto Gian Antonio Stella, insomma, probabilmente anche questa domenica la passerò male. No Mario, fai qualcosa di divertente. Con questa consapevolezza di sottofondo, dobbiamo essere coscienti di certe cose, però fai anche delle cose piacevoli, certo. Diciamo, senza avere il pensiero. No, io... francamente, come ho detto alla centralinista, sì. In realtà la notizia che più mi ha colpito non è notizia, nel senso tutto il mondo ormai ci vede come degli zombie, perché ce lo possiamo dire, la nostra economia è allo sbando, siamo praticamente alla canna del gas, e vedere che in Italia siamo presi da il Parlamento è occupato a votare sulla fiducia a questo o a quel ministro accusato più o meno di mafia oppure di malaffare, è impressionante. Io ho la fortuna, ma anche la sfortuna, di vedere tantissime aziende qua nel Veneto, faccio rappresentante sindacale, insomma un ruolo ingrato in questo momento, e sto vedendo praticamente lo smantellamento dell'industria, degli artigiani, perlomeno nel Veneto ma in tutta Italia è così, quindi stiamo andando veramente a rotoli e purtroppo siamo occupati a trattare la fiducia a questo o quel ministro piuttosto che al Presidente del Consiglio. Io veramente sono molto preoccupato, senza creare allarmismi fuori luogo, ma credo che veramente sia arrivato il momento in cui dobbiamo sul serio rimboccarci le maniche, e come ha detto la Marzigaglia l'altro giorno, se abbiamo persone capaci che si diano da fare, perché altrimenti non penso che la Grecia sia così distante da noi. Mario, dimmi una cosa Mario, visto che sei in Veneto, che è una roccaforte comunque della Lega, senti qualcuno che commenta nelle cose, decisioni prese in questi giorni, scelte fatte, secessione eccetera eccetera, che francamente è già da un bel po' di tempo che la base in particolare della Lega appunto è in fermento. Io per carità diciamo che ho poco che mi accomuna con gli ideali della Lega, ma invece ho un buonissimo rapporto con chi vota questo partito, ecco. Però posso garantire che diciamo che dire che è in subuglio la base è un eufemismo, ecco. Tante cose non vengono assolutamente accettate, e soprattutto non vengono assolutamente accettate la gestione delle ex municipalizzate, che sicuramente va a gonfiare quel clientelismo che forse è uno dei cancri dell'Italia, ecco. Mario, mi fai una promessa prima di lasciarci? Sì. Non ti ripromettere più di non ascoltarmi, Mario, io ci tengo che tu ci sia. No, ma... controllo la prossima volta. Sì. Ci sarò sempre. Molto, molto bene, ma mi piace la fedeltà, almeno in queste cose, poi per il resto. Grazie Mario. Grazie, salutami Verona. E poi invece a Trapani, quindi andiamo giù in Sicilia con Ilaria. Salve a tutti. Ciao Ilaria. Io esulo dal dare opinioni. Volevo fare una domanda a Gian Antonio Stella, sì. E la estendo anche a te. Sì. A proposito del film evento della Sette, Silvio Forever, condotto da Enrico Mentana. Ecco, se Gian Antonio Stella mi potesse dare un parere anche diplomatico su come sia possibile... un parterre con Scalfari, Ferrara e Paolo Mieri con un moderatore come Enrico Mentana dopo un film come Silvio Forever. Cioè, a te Ilaria non è piaciuto Mentana, questo no, è il succo? No, non è che non mi sia piaciuto, il mio parere, via, ve lo dico, è ma allora vale tutto. Ecco, perché... Non per dare giudizi su Mentana qui e là, però era veramente una situazione paradossale vedere Mentana dibattere dopo la visione di un film, e l'ho visto molto mentanoso. Volevo molto sapere mentanoso. Come l'aveva visto Gian Antonio Stella questa cosa. Va bene Ilaria, ti ringrazio. Ma Mentana è un giornalista, un grande giornalista, può piacere o non piacere, insomma mi pare che abbia un ruolo così importante nella Sette che forse fosse abbastanza normale, diciamo, Gian Antonio che conducesse lui, presentasse lui. Io trovo che fosse giusto, che era giusto che fosse lui a condurre il dibattito, perché Mentana è il più bravo che c'è a fare quel tipo di lavoro, ed è un riconoscimento che gli va dato, e del resto come fa il giornale tutti i giorni lo rivolta. Ha lavorato per tanti anni alla, con Berlusconi, Mediaset, certo, sì, che ha lavorato tanti anni con Berlusconi, tantissimi. Però c'era bisogno aggiungere due cose. La prima è che io non ricordo esempi di piaggeria fatti da Mentana in quegli anni, neanche lontanamente paragonabili agli esempi di piaggeria che si sono visti in questi ultimi anni. Punto uno. Punto due, perché lui è fatto così, perché è troppo ironico per essere un servo, non lo è, non lo è mai stato. Punto due, Canale 5 era non era ancora militarizzata, tanto è vero che c'è stato un periodo in cui Berlusconi teorizzava di voler parlare con tutti gli italiani, tanto è vero che andò a prendersi per una stagione o due, adesso non ricordo, Santoro, così come andò a prendersi altre persone. Quindi nulla in contrario, Gian Antonio, insomma. A sinistra, ecco, schematicamente collocati a sinistra, a torto o a ragione. Il terzo motivo è che è cambiato molto Berlusconi. Lo stesso nostro film, che sia pure con leggerezza ripercorre la sua storia umana, che in alcuni aspetti è davvero inquietante, lo stesso Berlusconi era diverso una volta, io mi ricordo che quando lui entrò in politica sorrideva sempre, diceva: io per non litigare mi faccio concavo e convesso, una battuta molto diplomatica. All'inizio vi ricorderete tutti, cioè, mi consenta di qua, mi consenta di là, poi mano a mano col passare del tempo si è incattivito. Lui dirà che lo hanno incattivito, però insomma, lo avranno gli altri, o è una cosa sua, fatto da che si è incattivito e le cose sono assolutamente cambiate. Io l'ho seguito il dibattito, devo dire che l'ho trovato un dibattito civile, in un paese in cui invece è molto facile litigare e insultare. Ricordo tra l'altro che, per chi non avesse capito, che è sceneggiatura di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, no? Gian Antonio, di questo film. Senti, adesso, mentre ci sono molte altre ascoltatrici e ascoltatori all'800 24 00 24 per commentare i fatti di questa settimana, che sono veramente tantissimi, dalla politica agli esteri, anche questa storia della lista, che dopo magari, se riesco, leggo sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, anche un sacco di pareri che sono usciti su questo argomento, chi è pro, chi è contro. Però lo sappiamo, aveva anche un'angolazione diversa, collegamento più unico che raro in tutto l'universo, in tutto il globo, eccetera, con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Ebbene sì, anche quassù da Marte, questa settimana, guardando il globo terracqueo, e in particolare le magnifiche sorti e progressive dell'italico paese, l'attenzione, dicevo, qui da Marte, si è focalizzata sull'outing, o meglio, visto che ha fatto un po' tutto da solo, sul coming out del Presidente del Consiglio, che ha detto: in quella telefonata in cui dicevo che me ne ero fatte 8, in realtà scherzavo, perché nessuno potrebbe farlo. Sconcerto, sgomento e profonda delusione tra i fan che speravano che almeno lui, in un momento in cui sembra che quasi tutto è perduto, soprattutto la faccia, almeno lui portasse alta la bandiera del vero macio latino. Ma niente, neanche questo. E così, se prima dell'estate si parlava del movimento anti-TAV, ora c'è il movimento anti-CAV, cioè anti-cavaliere, per l'appunto. E nel bailame di questi giorni spicca anche il salvataggio del deputato milanese di nome, non di fatto, quello che, come le nonne, riscuote, paga affitti, ma anche yacht, Ferrari, eccetera, solo in contanti. Tremonti intanto dov'era, si è chiesto qualcuno, pare sia corso a Washington più veloce di un neutrino. E qualcuno, dopo questo salvataggio, si sarà chiesto: ma perché lì alla Camera avete mandato in gattabuia Alfonso Papa, ma non Milanese? Forse perché, tutto sommato, morto un Papa se ne fa un altro? Milanese, tuttavia, è stato sottratto al carcere, ma è stato introdotto in una lista secondo la quale avrebbe simpatie maschili. Chissà se avrebbe preferito la gattabuia a questo, ma la penisola italica stessa in realtà ha evitato il peggio. Ebbene sì, un agglomerato di spazzatura spaziale stava per abbattersi sull'Italia del Nord, in particolare sulla Padania, forse era un residuo di satellite sudista, ma per paura di una fine poco epica anche i pezzi di satellite precipitante hanno snobbato il bel paese, preferendo andare a finire i loro giorni da qualsiasi altra parte. E intanto, dopo la scoperta dei neutrini più veloci della luce, la scienza ora si concentra su un altro fenomeno per capirne i segreti. Scoprire da quali misteriosi elementi è composta la tenacissima, straordinaria colla che tiene i parlamentari italiani indissolubilmente incollati alle loro poltrone. Senza esitare un momento, sarebbero pronti a scannarsi per quel divertimento. Son proprio deficienti gli uomini, ormai son proprio devastati. Sollievo poi ritrovarsi coi piedi per terra, naturalmente a volte da altre prospettive si vedono delle cose un po' nere. Ritornerei sul numero prima di farci un'altra piccola pausa, all'800240024, mentre c'è il nostro Alessandro Ballia che è tutto preso con telefonate a destra e a manca, sembra peggio lì della Casa Bianca col telefono rosso. Giulio da Milano. Buongiorno. Buongiorno, Giulio. Buongiorno. Io volevo prendere spunto dalla notizia di Sarkozy e Cameron che sono andati in Libia anticipando le cose dell'ONU, ma prendendolo un po' come esempio. Cioè, noi come rilancio dell'economia stiamo continuando a parlare dell'Italia, recupero di sprechi da parte della pubblica amministrazione, eccetera, ma non è lì che si fa la partita. Cioè, noi giochiamo solo questa, andremo a fondo tra un anno e mezzo, due. Cioè, quello che noi stiamo perdendo, io lo vedo nel mio lavoro che è molto basato su consulenze internazionali. Qual è il tuo lavoro, Giulio, se posso chiedertelo? Giulio? Tantissimo. Giulio? Sì? Che, qual è il tuo lavoro, se, visto che l'hai... Io faccio consulenza aziendale. Tengo in maniera generale. Il problema è che noi, a livello di... cioè in Italia, stiamo perdendo moltissimo i contatti con l'economia industriale, economia politica e finanziaria all'estero. Cioè, all'estero non si... con la piccola aziendina del Veneto, della Lombardia, eccetera, che va per i fatti suoi. Quello è morto. Non può andare avanti così. All'estero si va con un sistema integrato. Deve essere un grosso scudo politico che apre i contatti sui ministeri, a livello di capi di Stato, da copertura politica, eccetera. Si va con un sistema di banche integrato, grosso, non con la piccola azienda, si va con un sistema di banche grosso che prende i grossi contatti di tipo finanziario e dà le coperture, elimina le burocrazie di tipo finanziario e apre le linee di credito. Si va con un sistema industriale grande per cominciare a prendere dei contatti sia per andare a produrre là, ma anche per aprire i mercati di uscita. Ora noi questo lo stiamo perdendo con Francia, Inghilterra e gli altri. In più stanno venendo su turchi e tra poco saranno gli spagnoli, perché hanno cominciato anche gli spagnoli a riprendersi, non male. Allora, senza questo meccanismo noi adesso possiamo andare a recuperare quello che vogliamo, ma fra un anno e mezzo, fra due anni e mezzo siamo morti. Noi siamo 60 milioni di abitanti, non siamo 5 milioni come la Danimarca, 8 milioni come la Svezia, che possiamo cavarcela solo con un recupero di sprechi interno. Se con 60 milioni di abitanti, se non facciamo così, andiamo a fondo, e il problema è che i segnali sono in questa direzione. Adesso l'esempio di Sarkozy e Cameron era eclatante, ma è solo la bandierina dell'argomento. No, ho capito, Giulio, cosa vuoi dire. È che non è così, e i turchi ci stanno mangiando dall'altra parte. Mamma, i turchi. Dov'è la nostra sponda? Giulio, a parte la sponda, che poi decidiamo su quale sponda, volevo dirti una cosa a parte tutto questo. Tu sei iscritto alla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni? No, però io la seguo tantissimo, perché come giornalista io l'apprezzo moltissimo. Grazie Giulio, moltissimo. Grazie, hai ragione effettivamente per questo, ma dico, però se puoi iscriverti alla pagina sono tanto contenta, e ti ringrazio molto Giulio per queste tue osservazioni, per queste tue considerazioni. Grazie Giulio, ci sentiamo. Grazie. E saremo in pausa, ma in 30 secondi Gian Antonio, tu riesci a dare una risposta a Giulio del tuo pensiero? Proprio 30 secondi, abbiamo la pausa. Hai perfettamente ragione. Vorrei leggere soltanto una cosa. Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha suggerito agli imprenditori italiani di investire nei paesi dell'Europa orientale piuttosto che in quelli emergenti come Cina e India, perché in quei mercati il Made in Italy è più possibilità. Dobbiamo guardare, ha detto il Premier rivolgendosi alla platea di un convegno organizzato dall'Istituto del Commercio Estero, ai mercati più vicini come quelli dei Balcani, dell'Europa Orientale, della Russia e della Bielorussia, perché in Cina e in India non sono ancora dei mercati in cui noi possiamo pensare di investire quanto vorremmo, perché ci sono ancora, c'è ancora una piccolissima percentuale di ricchi. Lo diceva nel 2005, mentre la Cina costruiva un ponte in mezzo al mare di 36 chilometri in 1200 giorni. Ve l'ho già detto qualche altra volta, leggo lo stesso i vostri messaggi via SMS, ma non in diretta, perché sarebbe bisogno di più tempo e poi preferisco sentire le vostre voci. Però un ascoltatore mi ha fatto rivenire in mente la questione Gelmini, mi piacerebbe sapere poi cosa ne pensa Gian Antonio Stella a proposito di questo esperimento di neutrini, no? Fatto dal CERN, con collegamenti con l'Istituto di Ricerca del Gran Sasso, eccetera eccetera. Ieri la Gelmini ci ha avuto un po' una defaillance, qualcuno l'ha informata male e ha detto: questo tunnel che abbiamo fatto tra Ginevra e il Gran Sasso, abbiamo messo uno stanziamento stimabile sui 45 milioni di euro, non c'è nessun tunnel, naturalmente, nessun traforo. Che ne pensi, Gian Antonio? È uno scherzo. No, è vero. Diciamolo tra l'altro. Vabbè, possiamo finirla anche qua, su questa cosa. Comunque, chiudiamola qua, agenzia dell'ANSA. Comunque, a proposito dell'agenzia dell'ANSA, ne vedevo un'altra invece, che è questa, sapete appunto di questa lista pubblicata anonimamente su presunti politici italiani gay che però sono omofobi, anche se in realtà poi in questa lista dei primi 10 io ne riconosco diversi che non sono omofobi, nel senso che non hanno detto nulla di male in genere sull'omosessualità. E comunque la Procura di Roma ha aperto un fascicolo processuale per il momento contro ignoti sulla vicenda della lista dei 10 politici appunto indicati da un blog come presunti gay da un lato e integerrimi difensori del rigore dei costumi dall'altro. Questo per il trattamento dei dati sensibili. Tu cosa ne pensi, Gian Antonio, di questo argomento? Poi se riesco leggo anche qualche posizione. C'erano state polemiche simili in America quando avevano fatto la stessa cosa. Che lì spesso fanno queste cose in realtà, poi non solo negli Stati Uniti. Sì, poi qualche volta succede anche che qualcuno dice sì, è vero, però insomma, per noi sarà complicato. Sì, molto complicato. È un po' più difficile per chi è omosessuale. No, credo che sia stato un errore, io non sono d'accordo, capisco la provocazione, capisco l'irritazione del mondo omosessuale, se, le battutacce sui culattoni, i finocchi, eccetera, finocchi, ma anche evitare delle leggi, tutte queste cose qua, però è una, c'è un eccesso di legittima difesa, diciamo così, che crea danni. E tra l'altro io sono d'accordo con te, anche appunto anche con te sono, capisco l'indignazione, no, di tante prese in giro, del dire i gay sono tutti dall'altra parte, meglio farsi tante donne che essere gay, tutte queste robe qui, insulti e cose varie. Diciamo che a volte, ecco, quando proprio si arriva all'esasperazione, viene voglia di smascherare qualcuno che attacca tanto i gay e poi dopo lo è lui, e per diciamo liberarsi del sospetto su di sé, che non ci sarebbe nulla di male, sarebbe bello, ecco, poter dire finalmente che è comparabile il farsi dare del gay o dare del gay a dire sei francese, sei tedesco, dice no, veramente sono nato in Italia, ecco, nulla di che. Però volevo leggere proprio velocissimamente, vediamo se riesco a riacchiapparli le varie opinioni, anche poi sul deputato Marco Milanese, su Facebook ce ne sono moltissime, Facebook non ci sono più le mezze stagioni. Ecco qua, Michele a proposito dice: essere gay omofobi è un po' come odiare se stessi, se è vero tutto questo è preoccupante o no? Giuseppe dice: a causa delle azioni sfacciatamente insolenti di ormai troppi politici, la gente ha perso qualsiasi remora nello scagliare sassi contro i cocci di questa Repubblica. Corrado scrive: mi sta scoppiando la testa per capire se è giusto o sbagliata questa cosa, due rovelli sono l'anonimato e la mancanza di prove, con queste due non trascurabili aggiunte non avrei dubbi, hanno fatto bene. Gioacchino scrive: mi ricordano tutte tanto le liste di proscrizione. E poi Roni scrive: lo trovo un'azione violenta, anch'io non riesco a capire se quanto sia giusto abbassarsi a questo livello. E mentre c'è qualcuno che invece dice tipo Dora: provo un sottile piacere allo smascheramento di questi ipocriti, i quali li abbiamo anche messi a legiferare. Insomma, al di là poi che sia vero o non sia vero, secondo me bisognerebbe arrivare per l'appunto al momento, al punto in cui non c'è nulla da offendersi. Credo che la risposta più intelligente, fra l'altro, Gian Antonio, l'abbia data Corsaro, del PDL che ha detto: caspita, meno male, pensavo di essere in una lista di interisti, cripto interisti, meglio così. Quindi penso che sia la risposta più intelligente. Mariella, vi prego di essere adesso molto sintetici. Mariella da Trieste. Mariella, buon grazie. Buon pomeriggio a voi. Parlo da Trieste a questo bellissimo salotto che oggi ci avete regalato. È un tinello, sì. Un'estimatrice di Antonio Stella, perché l'ho visto, ho avuto l'opportunità di essere quando ha presentato la casta giù a Grado d'estate, che era una bellissima giornata. Eri una grande tifosa. E dunque li ho letti tutti, li ho letti i suoi libri, perciò io condivido al 1000% quello che dice lui, perché forse una parte degli italiani dovrebbe ragionare come ragiona lui. Senta una cosa. Il punto, sì. Allora io chiedo a Gian Antonio Stella, che una cosa che io non sopporto più di sentire, la parola vitalizio. Vitalizio è una cosa insopportabile più, perché questo vitalizio va in eredità alla moglie o all'amante, alla compagna, ai figli e quant'altro. Ma fino a quando noi cittadini sopporteremo una cosa del genere? Grazie. Vorrei sapere perché, dato che ci si appella sempre al popolo, tutto il santo giorno si riempiono la bocca del popolo, allora questo popolo potrebbe fare una cintura sanitaria attorno al Parlamento e non farli uscire più, lasciarli lì senza acqua. Ma questi sono tutti contenti? Senza controfiletto, no. Mariella, grazie. E tra l'altro, vedete, li lascia alla moglie, all'amante, anche nella testa. Ci abbiamo, fra le altre cose, il Parlamento è fatto alla stragrande maggioranza di uomini. Questa è un'altra faccenda. Gian Antonio, molto brevemente, che dici del vitalizio? Vuoi spiegare anche a chi non lo sapesse ancora questa parola molto ripetuta, che significa vitalizio? Beh, la vera differenza è questa, no? Cioè che mentre vitalizio viene dal fatto che ti dura tutta la vita, questo succede anche con le pensioni. Però una volta capitava che uno comprava, non so, quel meraviglioso racconto di Pirandello, in cui uno si faceva dare da un vecchio tutto quello che aveva e si impegnava a mantenerlo finché lui campava. Ecco, nel caso di vitalizi la grande differenza con le pensioni è questa, che mentre alcune pensioni non sono cumulabili, nel senso che non puoi fare un lavoro e contemporaneamente prendere la pensione, o almeno insomma è più complicato. E magari sono di 300 euro al mese? Sì. Sì, nel caso di vitalizi invece tu puoi accumulare quanto ti pare, e ci sono, e questa è una prima ingiustizia. Una seconda ingiustizia è che ci sono delle sperequazioni abnormi. Faccio un esempio: la pensione media erogata dall'INPS, comprese le pensioni sociali, è di 799 euro lordi al mese, lordi, ripeto, cioè neppure 800 euro al mese lorde. Il vitalizio lordo che prende oggi Piero Marrazzo, dopo aver fatto per 4 anni il governatore del Lazio, è 5 volte più alto, cioè 4.000 euro al mese. Questo è chiaro che se tu non cambi le regole non puoi chiedere sacrifici alle persone. Quello che dicevamo prima è questo: quali sono i grandi costi della politica? Questi sono, e cioè tu non puoi permetterti di andare a fare delle riforme che vanno fatte, perché per i nostri figli e i nostri nipoti è ovvio che occorre allungare l'età pensionistica. Io sono uno di quelli che ci perde, però bisogna farlo. Per i nostri figli e per i nostri nipoti occorre andare in pensione più tardi, solo che questa riforma, che è ovvia, che gli italiani, se glielo spieghi, la capiscono tutti, perché non c'è nessuno così egoista da fregarsene dei figli e dei nipotini per dire no, io voglio la mia. È una riforma che si può fare solo se prima vengono fatte queste riforme qua. Non puoi accettare di portare la gente in pensione a 67 anni se a 46 anni può avere il vitalizio, adesso è sospeso perché gli è andata un'altra carica molto più remunerativa. Non puoi andare in pensione a 46 anni come il berlusconiano Antonio Martuscello. Questo è il problema, che o fai delle riforme ai costi della politica o non puoi fare le riforme necessarie. Ce la fai così brevemente anche tu, Luciano, dalla provincia di Prato? Ci siamo. Ci siamo, allora salutone a tutti, Roberta, mi congratulo lì con Gian Antonio Stella. Gian Antonio Stella, sì. Praticamente il sistema dello spreco qui in Italia non dipende da noi, dai cittadini, dai semplici operai o quello che si può dire o dal piccolo imprenditore, dipende da chi ci gestisce. Se loro hanno gestito male per questi 50 anni, bisogna che si rimbocchino le maniche, si frugano nelle tasche dei pantaloni e vanno a prendere tutto quello che hanno asciugato a tutta la popolazione italiana, che vitalizi, pensioni, e barche, e monti. Chiarissimo, Luciano, chiarissimo, con tutta la tua verve toscana si è capito esattamente quello che vuoi dire, ma per andare pian piano a un appuntamento, ma prima mi ricordo una delle notizie di questa mattina, che sono stati degli spari prima della messa del Papa in Germania, però tutto tranquillo, mi pare sia che sia stato anche arrestato l'uomo, probabilmente uno squilibrato, insomma non c'è nessun ferito per fortuna. E adesso andiamo pian piano verso il nostro appuntamento con Maria Laura Rodotà del Corriere della Sera. Che cosa ci vuole rivelare, di cosa ci vuoi parlare, Maria Laura? Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Vabbè, il primo messaggio è per Gian Antonio Stella. Io non posso imbracciare il fucile perché credo mi sparerai su un piede. Però in caso ho la bici qua sotto, posso fare la staffetta. Brava, che quella è sempre una figura epica, diciamo, ben ricordiamo. Bene, Maria, ecco. L'abbiamo già ingaggiata, sì. Benissimo, io vorrei tornare alla outing list che è apparsa ieri su un sito americano. Però messa da italiani. Allora, io ho pensato molto a questa cosa, ho pensato anche di fare delle liste forzatamente spiritose di politici ben più dannosi, diciamo, per se stessi e per gli altri. Per esempio, non so, i 10 che fanno acquisti immobiliari a loro insaputa, i 10 pirla che vanno in weekend a Ravello con giovani amiche di Berlusconi, oppure andando al nostro business, mio, tuo, i 10 giornalisti che ieri hanno scritto roboanti condanni alla lista dell'outing, che però hanno passato l'intera giornata a fare pettegolezzi sui nomi che erano venuti fuori. È vero, ditelo tutti. Ecco, quindi, Vero, perché sì. Ammettiamolo, ci sono state tutte queste pruriginose dichiarazioni, ma poi in realtà tutti si sono messi a spettegolare. Ci sono state anche dichiarazioni molto infelici, come quella del ministro Carfagna, che ha parlato di accuse infamanti. Ora, io non perché trovo che essere gay sia un'accusa infamante. È questo che dicevo. Essere scemo, essere corrotto sono accuse infamanti, ma gay no, onestamente no. E qui vorrei fare una riflessione per una volta un po' seria. Cioè, questa lista, queste persone apparentemente secondo loro impeccabili, con una seconda vita, ma sono come noi, sono diverse da noi, e soprattutto esistono davvero etero e gay? Secondo me i veri etero e i veri gay sono una minoranza degli esseri umani. Sono d'accordo. E forse la maggioranza di noi è sessualmente fluida. In una società più aperta forse avrebbe relazioni sentimentali e sessuali in modo diverso. Oltretutto, per essere un gay dichiarato e militante in Italia ci vuole ancora coraggio. Per essere un politico di questo centrodestra ci vuole uno stomaco fortissimo. Non sono di centrodestra, un po' di qua, un po' di là, effettivamente. Maria Luisa, sono d'accordo. Tra l'altro mi sembra che oggi sia la giornata mondiale del bisex, quindi si è proprio caduta proprio a fagiolo, diciamo, anche in questa considerazione. Maria Laura, ti abbraccio. Grazie a voi, grazie. Buona giornata. Ciao Maria Laura. E mentre lascio che il nostro Gian Antonio Stella pensi a cosa ne pensa molto brevemente sulla questione milanese, il salvataggio ieri, Manuel, riesci proprio, diciamo, no, non ce la facciamo con Manuel, c'è Valeria della Valle. Manuel, perdonami se chiami la settimana prossima, perdonami davvero, sennò qui scatta sotto la poltrona e la botola e scendo giù. Valeria della Valle, cara Valeria, si è parlato, linguista della Sapienza di Roma, di secessione, non so se fosse folklore, se fosse altro, insomma l'ha detto Bossi alla festa dei padani a Venezia. Secessione, parola di grandissima attualità, pur essendo parola antichissima, viene dal latino secessionem, che significava appunto separazione. Beh, insomma, a scuola abbiamo studiato e tutti studiano, speriamo ancora, la secessione della plebe romana o la secessione più avanti aventiniana durante il fascismo. Ma secessione, appunto, col senso con cui l'ha usata Bossi e se ne è rammaricato il Presidente della Repubblica, ha anche un altro significato, non solo quella di separazione da un gruppo, ma separazione di una parte del territorio di uno Stato dalla parte restante dello stesso Stato. E poi, come non ricordare, la guerra di secessione americana. Ma insomma, tutto questo per dire che la parola secessione evoca sempre fatti drammatici, tragici. Forse l'unico caso in cui questa parola come sempre voglio concludere in leggerezza, evoca qualcosa che ci piace, è la secessione in senso artistico, insomma la secessione viennese e quel fenomeno che in tutta Europa poi ha dato il via a quella che chiamiamo Art Nouveau. Ecco, quella secessione ci piace, le altre e soprattutto quella di Bossi, almeno a me personalmente, un po' meno. Sei donna di cultura, grazie Cavaliere della Valle. Grazie, mentre ci avviciniamo verso la fine temporanea, ovviamente poi ci sentiamo sabato prossimo. Vi ricordo che potete riascoltare la puntata sul sito di Radio 24 o sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, cercando Roberta Giordano Non ci sono più le mezze stagioni. Leggevo questa dichiarazione di Maroni sul Corriere di questi giorni, che diceva che ieri ha provato a spiegare a Bersani: non potete chiedere a Berlusconi un passo indietro, perché è come chiedergli di ritirarsi sotto l'onta del lancio delle monetine. Quindi come se volesse dire sì, si potrebbe ritirare, si dovrebbe ritirare, ma forse non è il momento giusto. Gian Antonio Stella, in 30 secondi, 31, riesci a dire cosa pensi del caso milanese del salvataggio? Proprio 31 secondi? Beh, è stata una scelta politica, la prova che sia stata fatta una scelta politica è uno degli interventi che ho sentito, e cioè qualcuno ha detto: i magistrati facciano l'inchiesta, lo processino, lo condannino, però non chiedono a noi di condannarlo. Ecco, una frase simile è stata detta e dice tutto, e cioè è un Parlamento che non ha nessun interesse a fare pulizia da sé, e poi però si lamenta, si cercano di far pulire i magistrati. Insomma, c'è una contraddizione molto netta, molto vistosa, e credo che sia vero, c'è qualche parallelo con alcune scelte del passato in cui il Parlamento ha festeggiato senza rendersi una scelta, senza rendersi conto che nel paese, insomma, la reazione sarebbe stata del tutto contraria. Molto bene, vedremo come prosegue la prossima puntata. Naturalmente grazie Gian Antonio Stella col suo licenziale Padre Terni. Gian Antonio, guarda che è vero, poi vai a vedere anche sul Corriere.it la Gelmini, il tunnel tra Abruzzo e storia vera. Da Roberto Giordano, sereni orizzonti a tutti.